And now for a few more words and phrases. Come al solito? Esatto. Ecco la prima espressione. Ho bisogno di... I need... Ho bisogno di... Una penna. A pen. Una penna. Scrivere. To write. Scrivere. Usare. To use. Usare. Gentile. Kind. Gentile. Before the dialogue. Sì, lo so. Ascolti di nuovo le parole e le espressioni nuove. Se non ha avuto problemi, continui con il dialogo. Dunque, gli Uffizi, ecco. Un attimo, ho bisogno di una penna per scrivere il numero. Signora, può usare la mia. No, grazie, molto gentile. Di niente.